24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Il Presidente del Consiglio bocca sulla RAI, nel senso di partite non ce la mette. Chiedere alla RAI di dare una mano nel momento in cui ci rimbocchiamo tutti le maniche, caro Floris, okay. Tocca anche a voi. Mi dispiace, ma tocca anche a voi. È d'accordo che 150 milioni di spend review chiesti dal governo alla RAI, come a tutte le altre società pubbliche? Io credo che con il budget totale della RAI sia una cosa assolutamente possibile. L'unica cosa è inserire nei posti giusti una persona onesta. Nella RAI ha messo un ragazzo che si chiama Fico, Roberto Fico, napoletano, e l'ha messo alla vigilanza RAI, presidente. Aveva uno stipendio che poteva prenderselo di 24.000 euro all'anno, non l'ha preso, aveva l'auto blu, non l'ha preso, aveva una diaria, non l'ha presa, aveva 30.000 euro per il suo ufficio per organizzarsi la vigilanza, ha speso in un anno, invece di 30.000, 158 euro. Abbiamo bisogno di queste persone messe lì. E questa è la rivoluzione. Poi un onesto si circonda di onestà. Onorevole Roberto Fico, buongiorno. Si riconosce questo bel ritratto fatto da Grillo? Sì, mi riconosco nel ritratto. Tutto vero? È tutto anche vero? Anche perché sì, tutto vero. È tutto. Certo. Senta, lei quindi si è tagliato lo stipendio. La RAI dovrebbe tagliare 150 milioni di euro per partecipare alla spesa complessiva, alla spending review. Lei è d'accordo? No, non sono d'accordo in questo momento, perché partecipare alla spesa con la spending review nel momento in cui i cittadini hanno già versato il canone, questo significa trattenere il canone, non significa far risparmiare niente ai cittadini. E oltretutto nell'articolato del decreto IRPEF si dice che la RAI può svendere quote di società da lei controllate. No, ma io parlavo dei 150 milioni di euro. Sono collegate le cose, perché loro dicono la RAI era Rai Way, insomma 150 era Rai Way. Senta, volevo sapere una cosa, il canone però, come lei sa, è evaso al 30%, quindi diciamo siamo lì. Sì, il canone è circa il 27%, sì, 30, ragione, non c'è dubbio che va recuperato, non c'è ombra di certo, dubbio su questo. Questo è sicuro. Sempre più a fronte però di un servizio, di un prodotto editoriale migliore e di alta qualità. Ecco, senta, nel 2016 scade la concessione tra la RAI e lo Stato, oramai si comincia a saperlo. Senta cosa mi diceva lei 6 mesi fa su cosa dovrebbe fare la RAI, poi ne parliamo. Sì. Secondo me la TV pubblica deve avere solo servizio pubblico. Per fare servizio pubblico potremmo riorganizzare le risorse interne, usare quelle professionalità che oggi valgono e prendere un team di veri autori e di veri, come lei dice, televisionisti, e cercare di fare un prodotto editoriale vero, con grande capacità e costruzione di futuro. Se lei fosse il direttore generale della RAI, che palinsesto farebbe allora per meritarsi nel 2016 il rinnovo della concessione del canone? Farei un palinsesto con delle grandi idee editoriali. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Ecco, onorevole Fico, la pensa sempre nello stesso modo? Sì, penso che il servizio pubblico deve essere solo servizio pubblico e deve essere svincolato dai partiti per fare accrescere la d'accordo. Cultura e la conoscenza della società. E sui palinsesti? Conosce, la società diventa libera. Sì. Ma adesso sui palinsesti non le posso dire quali palinsesti, perché è un concorso di idee sui palinsesti, dipende dai progetti che presenteranno le persone per i palinsesti. Lei sembra che si stia... non è una persona. Lei sembra che si stia lavorando nella direzione giusta per arrivare all'appuntamento attrezzati a avere il rinnovo in toto in esclusiva del canone? Rispetto alla linea editoriale, secondo me no, non reputo che in questo momento ci sia un prodotto di grande qualità per la nazione. Senta, il presidente dei dirigenti della RAI l'altro giorno in trasmissione ha detto, come segnale di questa ricerca, ma ha detto che trasmettere il Giro d'Italia su RAI Education era una prima scelta in quella linea. Lei è d'accordo? Non avevo ascoltato questa dichiarazione, la sento adesso. Il Giro d'Italia è una tradizione italiana, è molto importante, va secondo me trasmessa nei canali anche di maggiore afflusso, anche di ascolto e di possibilità, anche se oggi abbiamo una frammentazione dovuta alla digitalizzazione, quindi con tutti questi canali è cambiato un po' anche il concetto generale, è cambiato tutto. Certo. Senta, chi ha vinto lunedì a Porta a Porta tra Grillo e Vespa, secondo lei? Io credo che Grillo abbia dimostrato di appartenere ad un altro mondo, ed è stato un momento molto forte quando ha detto a Vespa: tu sei fossile, noi siamo rinnovabili. Credo che in questa espressione si chiude la vittoria, si è racchiusa la vittoria, ma non era uno scontro poi dove si vince, si è chiusa la filosofia del pensiero anche di Beppe e nostra. Senta, ma è stato un cambio di strategia improvvisa quello di Grillo di andare in Rai? Io credo che sia la chiusura di un cerchio. 21 anni fa l'ultima apparizione in Rai e ha deciso adesso di riappropriarsi. Cioè un colpo di scena di un uomo di spettacolo. Un colpo di scena che però chiude un cerchio. Senta, un cerchio proprio anche della vita. Senta, onorevole, della vita in che senso? No, della vita. Speriamo di no. Di quel percorso, no? Della vita, certo, di quel percorso. Senta, l'ho trovato molto bello. Onorevole, se andrete al governo sarà ministro della TV? Ma non ci sono nomi da fare, già abbiamo detto. No, l'hanno fatto Roberto, il suo nome, per questo che sì, l'ho sentito. L'hanno fatto, però come fanno tanti nomi, a scegliere una squadra di governo, nel caso noi andremo al governo, saranno la stessa metodologia che abbiamo usato magari rete, per il certo. Sì, come abbiamo fatto per il Presidente della Repubblica, che siamo stati sì. Primi nella storia a scegliere il Presidente della Repubblica in rete. Onorevole Fico, c'è Pietraggio Buttafuoco, vuol farle una domanda? Buongiorno, sì. Senta, a voi non fa difetto certo la chiarezza. Allora, abbiamo letto e abbiamo saputo che all'indomani della vostra vittoria elettorale cominceranno, diciamo, i processi al vecchio mondo. Allora, lei che ha avuto modo di vedere le carte, una domanda e le chiedo dei nomi o almeno un solo nome. Chi, per esempio, nell'azienda Rai dovrà essere processato per primo? Le chiedo chiarezza e nomi. Lei ha visto le carte. Io sono fermamente convinto che lo Stato si fonda sulla divisione dei poteri. Gli unici a fare i processi sono i magistrati dal punto di vista giudiziario. Va bene, e i cittadini lo fanno dal punto di vista politico, mandando a casa la vecchia classe di Va bene, quindi, Grillo, quindi non farete processi. Senta, un SMS, mi dicono di chiedere cosa pensa Fico degli evasori del canone Rai, come ha ammesso di essere Grillo. È giusto, sì. Per lui. Allora, Beppe Grillo fa bene a evadere. Che per alcuni anni non ha pagato il canone, come sciopero rispetto a questa tassa personale. E io dico che il canone va pagato. Vabbè, facciamolo pagare anche a Grillo. Dobbiamo allora. Però pretendere di avere un servizio. Certo. Ecco. Ecco, una domanda finale di sì. Mario Secchi. Tre canali, tre telegiornali. Ha senso? Secondo me non ha senso, vanno riviste tutte le testate giornalistiche, andrebbero riunite e credo che un modello di una testata nazionale, regionale, internazionale potrebbe andare bene. Grazie onorevole Fico, buon lavoro. Grazie mille a voi, salve. È carino qui. Sì, bello qui. Prego signore. Ok, ci porti la lista. Sì, però prima facciamo sparire queste, dato che qui non siamo in una bisca. Guardi che mi stava solo insegnando il poker. Io lo so come sono queste cose. Si comincia col poker, poi salta fuori la cocaina. Ma come si permette? Poi ci si mette nudi, tacchi a spillo, la Polaroid. Non farci caso, sai. Questo è un posto dove i camerieri usano scherzare coi clienti. Lui poi è uno particolarmente scemo. Ogni cliente ha il cameriere che si merita, signore. Cosa c'è di buono? Tutto nel ristorante, fuorché la clientela. E si può sapere qualche specialità? Specialità ne abbiamo una sola. E cioè? Il conto. Benissimo, me ne porti due piatti. Gradirebbe un'insalatina di ovuli e tartufi con un po' di gruviera e un profumo di sedano? Sì, grazie. L'ho già mangiata tutta io. Vado a vedere se ho avanzato qualcosa nel piatto. Ecco, ad aprile noi ci siamo occupati di un fenomeno sempre più diffuso tra i ristoratori, gli albergatori, è il fenomeno di TripAdvisor. Una piattaforma sempre più importante sulla quale vengono postati 90 giudizi al minuto dei viaggiatori su ristoranti, alberghi, bed and breakfast, eccetera. Abbiamo intervistato Gianluca Pacini, all'epoca proprietario della Buca di Sant'Antonio, a Lucca, perché contestava le recensioni sul suo ristorante postate su TripAdvisor. Lei ha contestato delle incongruenze nei commenti pubblicati su TripAdvisor che riguardano il suo ristorante, ma incongruenze di che genere? Si pensa che siano delle recensioni fasulle, perché segnalavano cose che non esistevano, tipo? Compresi. Uno che aveva mangiato in un giorno che il ristorante era chiuso, quell'altro alcuni piatti che quello non lo fa. Ma è vero che a lei hanno dato del razzista anche nei commenti? Appunto, questo è attendibile, crede che sia vero?

Ho cenato al ristorante per motivi di lavoro. Da piemontese la cucina popolare toscana già non mi affascina, ma le preparazioni di questo ristorante sono improponibili. Le misere zuppe mettono tristezza, il capretto è asciutto e insipido, i dolci banali. Dunque, a distanza di un mese, come ho detto, l'antitrust, dopo numerose segnalazioni ricevute da parte dei consumatori, proprietari di alberghi, ristoranti, dell'associazione Unione Nazionale Consumatori, ha avviato un'istruttoria nei confronti di TripAdvisor. Abbiamo parlato col direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, che ci ha mandato questo materiale. Spettabile Harris Grill. Abbiamo trovato la sua mail su Pagine Gialle e la contattiamo per presentarle il nostro servizio www.ilprimosutripadvisor.it, grazie al quale potrà acquistare recensioni per la sua attività, ma non solo. Formiamo anche un utilissimo sistema di controllo del profilo per verificare e monitorare la presenza di recensioni negative o discriminatorie per la vostra struttura. Può scegliere il pacchetto in base alle recensioni TripAdvisor positive che vuole ottenere. Questa è una delle tante mail che ricevono gli alberghi, i ristoranti e che fanno dubitare sulle modalità di verifica di eventuali recensioni false da parte di TripAdvisor. In allegato, sempre ce l'ha mandato Nucara, c'era anche il prezzario che indicava 6 tipi diversi di pacchetti tra cui scegliere per un prezzo che parte da 50 euro e arriva a 750 euro. Ecco, Ernesto Preatoni, lei è uno dei più grandi imprenditori. Buongiorno. Nel settore turistico, fondatore, fra le altre cose, del Coral Bay a Sharm el Sheikh. È capitato anche a lei di ricevere queste offerte? Dunque, io posso raccontare alcune cose su TripAdvisor riferite soprattutto qualche anno fa, quando erano meno conosciuti. Avevamo un concorrente del Domino Coral Bay di Sharm el Sheikh che aveva ricevuto 1600 recensioni, tutte positive. Mentre noi ricevevamo recensioni negative, non sempre ben motivate. Ci siamo dati un po' da fare e abbiamo capito che evidentemente il concorrente aveva assoldato un paio di scagnozzi che erano competenti di queste cose e che facevano in continuazione recensioni negative su di noi e positive su di loro, per cui per me a quel punto TripAdvisor ha perso grandissima credibilità e non lo ritengo uno strumento sufficiente per stabilire se vale la pena andare in un posto forse invece c'è qualche bischerata. Ecco, senta, ma gli esercenti del settore pagando una quota possono registrare i loro profili aziendali sulla piattaforma di TripAdvisor. Lei è iscritto? No. No. Ma avete mai avuto l'impressione che gli esercenti iscritti avessero poi più visibilità? Punto con quei pacchetti di cui parlavamo prima? Assolutamente sì, ma voglio dire, ma quando noi diciamo che non ci crediamo, evidentemente noi abbiamo invece attivato molto tramite Facebook i nostri fan, i quali possono comunicare tra di loro per fare la verifica se si mangia bene, se si dorme bene, se le camere sono pulite, eccetera, senza l'intervento di un intermediario che io allo stato attuale, visto la caduta di moralità del mondo, non crederei mai. Insomma, crederò molto di più a un tizio che l'ha visitato ultimamente, che non ha interessi di parte e con cui posso comunicare, ripeto, via Facebook e chiedergli come si sta, se c'è la guerra, se c'è la pace, se si mangia bene, se le camere sono pulite, e chi mi risponderà è persona che evidentemente non ha interessi di parte. Senta, interessi di parte in questo mondo mi lascia sempre perplesso. Oh, prego. Senta, dottor Preatoni, è una vittoria importante per il vostro mondo questa decisione dell'antitrust? Beh, sicuramente avviene anche dopo la richiesta di antitrust per la parity rate di Expedia e di Booking.com, forse qualcosa si sta muovendo e si riesce a capire, perché anche Expedia e Booking.com, mi consento solo 30 secondi, si Prego. Parla di rivoluzione del sistema di distribuzione delle vacanze, in realtà questi non hanno fatto altro che sostituire i tour operator che guadagnavano il 25%, e Expedia e Booking.com guadagnano presso poco le stesse percentuali. E quindi non è avvenuta nessuna rivoluzione anche lì. Io credo che ci vada ancora del tempo prima che si veda una vera rivoluzione nel settore della distribuzione delle vacanze. Senta, per finire, l'unità di crisi, che è una cosa che la riguarda direttamente, l'unità di crisi della Farnesina, sì, ha pubblicato il 28 aprile l'avviso in, sì, cui sconsigliavano i viaggi in tutta la penisola del Sinai, compreso appunto, sì, le località balneari come Sharm el Sheikh. Continuano i momenti di tensione? Non c'è assolutamente nulla a Sharm el Sheikh, e consiglio alla Farnesina di fare lo sconsiglio per andare a Roma quando sono le partite di calcio, oppure che si prendono pure, che sono dell'Ucraina o della Malesia. Lì evidentemente c'è qualcuno che si para semplicemente le spalle e che dice: tanto se non succede niente non mi succede niente, ma se succede qualcosa chissà cosa. Cioè, sono delle cose che sono incredibili, perché non ci si rende conto di quale danni si provocano l'economia e egiziana e italiana. Però insomma, posso ribadire, però l'Egitto, prego, è un paese caldo, non è che è un paese tranquillo. L'Italia è molto più calda dell'Egitto, forse no, sul piano climatico sì, l'Egitto è un paese caldo in questo periodo, ma nella realtà sul piano della sicurezza personale, guardi, non credo che ci sono delle città italiane, non voglio fare nomi, che sono molto più pericolose delle città egiziane. Ecco. Sono delle vere panzane che non fanno onore al nostro paese. Gli inglesi infatti informano, che considerano i loro cittadini, non dei sudditi, li informano e lasciano decidere a loro cosa fare. Senta, che gli inglesi mi hanno fatto uno sconsiglio, mai, gli italiani lo fanno. Senta, un'ultimissima domanda, Mario Secchi, devo, sì, fare una domanda. Buongiorno Priattoni, sì. Cosa, salve, consiglierebbe a un giovane che vuole lavorare nel suo settore all'estero? Cosa deve fare? Ma bella io domanda, voglio dire, prenderei sicuramente in considerazione paesi nuovi, non so, a me piace molto la Birmania per esempio, e voglio lavorare nel mio settore, nel settore turistico, è meglio che lasci l'Italia, ma direi che è meglio che lasci l'Europa. Le mie previsioni sulla, in generale sull'Europa, visto anche i problemi che ci sono sull'euro eccetera, io dico, fin quando non si sarà chiarita la situazione e che fine farà l'euro, io non consiglierei di fare né investimenti in Europa né tantomeno di imbarcarmi in iniziative che potrebbero vincolare il resto della vita. Ecco, un'ultimissima cosa, mi chiedono per via SMS, dottor Minoli, se chi inserisce le recensioni allegasse anche il numero dello scontrino che attesti l'effettiva fruizione del servizio, forse sarebbe già un primo passo, no? Che dice? Sì, sì, può fare qualcosa del genere, però guardi, conoscendo l'uomo, la possibilità di aggirare queste cose esisterà sempre. Ripeto, credo molto di più ai suggerimenti che vengono dati da persone indipendenti che sono state ultimamente in quel posto e che possono essere facilmente contattate. Per esempio, noi abbiamo il sito Domina Coral Bay, dove abbiamo circa 150.000 fans, basta iscriversi a questo se si vuole andare lì, iscriversi e interpellare una qualsiasi delle persone che sono. Ultimissimo SMS, Booking ed Expedia hanno rivoluzionato il modo di viaggiare, state facendo disinformazione. Risponda lei. Rispondo io? Sì. Guardi, non hanno rivoluzionato nulla. La rivoluzione nel settore della distribuzione delle vacanze deve ancora venire. Io ho qualche idea. Va bene. E va bene, ne parleremo allora in una prossima puntata. Okay. D'accordo? Grazie, dottor Priattoni. Ricordo a chi ci scrive che è gradita la firma, perché se no è inutile che facciamo le trasmissioni su questo tema. Pubblicità. Mix 24. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. Pietrangelo, ecco. Vengo anch'io a Metropolitana domani con te, perché mi sa che conviene. Conviene, assolutamente. Una scena bellissima oggi. Un padre e un figlio seduti insieme, coi libri squadernati. Ho capito, mi sono avvicinato, c'era qualcosa di potente, di importante, stava succedendo, che il ragazzo doveva fare oggi un'interrogazione. Certo. Ho capito che era di maturità. E stavano studiando Schopenhauer. Tutto è illusione, tutto un'illusione, tutto nel velo di Maya. Erano avvolti, padre e figlio, immersi in quella lettura, quando a un certo punto, arrivando a considerare che tutto è illusione, aprendosi le porte perché il figlio stava andando via verso scuola, si sono abbracciati. e tutto è diventato realtà. Padre e figlio. Posso? Cioè, era la Gazzetta dello Sport quello che stavano leggendo. Sì, beh, naturalmente. Tutta fuoco non la conosce, cioè, ovviamente. Perché era rosa, gli ma sembrava Schopenhauer. Che Schopenhauer. Senti Mario, dopo tutte le notizie che hai anticipato in questi giorni, davvero sì. Tante. E oggi sì. Che cosa bolle nella tua pentola? Siamo in palla in questi giorni. Vabbè, sentiamo un po' di bollicine, ma senti. Dobbiamo custodire il creato. È un dono che il Signore ci ha dato. Per noi. È il regalo di Dio a noi. Allora, la domanda è come sta il Papa? Perché le cronache ufficiali dicono bene e così pare a tutti noi. Stamattina però sulla mia email è arrivato un articolo di Idor Pentin per Newsmax. Idor Pentin è un vaticanista di peso, che sa le cose, e insomma che dice che la salute del Papa comincia a sollevare dubbi, soprattutto per i suoi troppi impegni. E in effetti Papa Francesco è un uomo certamente molto vigoroso, però ha pur sempre 77 anni, un polmone che non gli funziona bene ed è un po' aumentato di peso. Qualche appuntamento nelle settimane scorse è saltato per qualche problema di salute, una febbre, eccetera. Sabato comincia il viaggio in Terra Santa. Molto e sarà importante. Molto faticoso, oltre che, come giustamente hai detto tu adesso, molto importante. Pensa, ci sono 15 appuntamenti dove dovrà parlare 15 volte, 15 discorsi, ovviamente non tutti della stessa intensità, però tra Amman, Gerusalemme e Betlemme. Quindi noi che cosa possiamo augurare? Buon voyage. Sì, no? Io penso anche che il Papa non sanno più da dove prenderlo, adesso lo prendono così. Dalla salute, naturalmente, perché è la prima cosa che si comincia a dire quando Pentin è un amico non si... del Papa, quindi va bene. Buon voyage. Buon voyage. Ovviamente con Caputo, ma per andare dove? In Vietnam, direi, no? Good morning Vietnam! Grande film, grande film. Grandissimo. Allora, io tengo molto d'occhio in questo periodo tutto ciò che succede nel Pacifico, anche perché giustamente è l'unico posto dove succedono le cose importanti, davvero. In questo momento è in corso una disputa piuttosto seria tra il Vietnam e la Cina, perché Pechino ha piazzato una piattaforma petrolifera in acque vietnamite, o comunque diciamo contese. Allora, tu ti devi immaginare la scena, arrivano i cinesi e piazzano una piattaforma petrolifera. Insomma, da noi qualcuno mai si arrabbia un po', per non dire altro. E vabbè, però non fanno la guerra, almeno per ora, anche se c'erano movimenti di truppe ai confini, e hanno deciso di far causa alla Cina, se la risolvono in tribunale. Pensa se lo fanno in Italia. L'arbitrato in tribunale, 30 anni di causa civile. In ogni caso, l'area del Pacifico è quella che ci interessa, perché ha fame di energia. E infatti, i cinesi e russi, più di tutti, i cinesi e i russi hanno firmato un contratto trentennale per una bazzeccola, sono 400 miliardi, con la Russia l'altro ieri, e quindi bye bye Europe. Noi gli diamo le sanzioni e loro vanno in Cina e se ne fischiano. Ricordati Giovanni che ci sono temi e musiche che non muoiono mai, come questo. Un po' di giorni che non lo mettevo, mi stavo sentendo male. Due o tre ore. Quindi allora, l'inno c'è, il mio criptoputinismo va avanti. E non so cos'altro vogliamo chiamare, la quota rosa. Certo, quota rosa oramai. Beh, direi. Berlusconi, pensavo, no? Si è tolto tanti sfizi con i politici e i capi di Stato. Cioè, per esempio, ha detto capo a Schulz, assassino a Grillo. Ma una cosa che ha detto, una, gli è costata veramente cara. Do you have a particular problem with Angela Merkel? Is it true you called her an un***able lardass? Addirittura la BBC gli chiede conferma delle frasi dette sulle forme troppo abbondanti, diciamo così, della Merkel. Dopo questa frase Berlusconi ha passato proprio un brutto periodo, eh? Quindi, uomini, avete capito cosa vi può succedere se criticate la forma fisica di una donna? Allora dedico questa canzone ad Angelona Merkel, così magari le passa l'arrabbiatura. Rosalina, Rosalina, a me piaci grasso fina, ma quando è sera, ti sento masticare quando è sera, oh sera, ti ammazzi con il bue, amore mio. Hai capito? Hai capito? Per fortuna che Sara Tardelli ci salva, ci aiuta a risolvere i problemi. Prova a parlare con la di Germania. Cozze e vedi cosa ti succede. Salamino. Salamini di Sicilia. Allora, leggo un articolo di Felice Cavallaro oggi sul Corriere della Sera, un pezzo fantastico perché ribalta tutto, altro che Angelo Musco, Luigi Pirandello, perfino Giovanni Gentile. Allora, che succede? 16.000 impiegati alla regione siciliana e nessuno è esperto di Facebook. È successo che è stato fatto un bando di concorso dagli espertissimi, meravigliosissimi, fantasticissimi nuovi assessori del governo regionale siciliano, ed era una cosa complicata perché praticamente anch'io, a leggere 20 volte questo articolo, non ho capito in che consistesse sto bando di concorso, perché era scritto in un linguaggio un po' demo plutoacrese, perché non si capiva che cosa volessero. Giustamente, come fanno a partecipare a un concorso se non si capisce di che corso concorsare? Allora, io mi devo chiedere aiuto a Sara Tardelli, che ha fatto anche lei le scuole alte. Sì, io mi sono fermata alla lingua canina, lei conosce. Allora, dunque, sì, per esempio, lei dice, qua leggo che sì, vogliono esperti in social media e social network, e fin qui ci arrivo. Sì, Twitter ci arrivo, Facebook ci arrivo, e poi mi sono confuso. Cos'è sto front and back? Developer front and back end, Pietrangelo, di cui non devi avere paura. No. Davanti e dietro. Davanti e dietro. Davanti e dietro. Adesso no, tutto a posto. E vabbè, bastava dire tutto. Siciliano, una mano davanti e una d'arriere. Vabbè, esatto, andiamo avanti. Esatto. Poi senior creative director. Mizzica. Poi. Poi creative project manager, public policy consultant, senior planner and producer, web designer e un responsible mentoring. Dove lo vediamo? Tutto questo alla regione siciliana. Tutto questo alla regione siciliana, perché ma lì c'è turismo. È meraviglioso. Giustamente, devono sapere le lingue per incrementare il turismo. È andata a deserta, giustamente, no? però uno, ma affida tutto un'agenzia, fai prima, no? Fai però anche le cose per bene. Una nota di rammarico la voglio qui pronunziare. È pur sempre la patria che ha dato i natali a Gianni Riotta e non è in grado di gestire questo passaggio epocale di internet. Grossa, è vero. Povero. Sono d'accordo. Posso fare una dedica? Dedica. Perché noi la modernità ne facciamo sempre un'installazione contemporanea. Prego. Ma quanto è bello andare in giro, custa Vespa Periperi, per cura Pichicce, a costura d'arredi. Chi sono questi? E come questa è a Vespa, con la Vespa truccata, pere pere, e a costura d'arrere. A costura è la questura, no? La parliamo questura di dietro. Cose serie. Il 22 maggio, tristi, il 22 maggio di un anno fa a Genova moriva Don Andrea Gallo. Nel 2010 nasce l'associazione Princesa. Qualcuno chiede, ma chi fa il presidente? E una delle ragazze dice: presidente dei trans a Genova abbiamo già, che è Don Andrea Gallo. I giornali scrivono, immediatamente sono chiamato da Sua Eminenza. Brevissima udienza, molto significativa. Sua Eminenza mi accoglie con molta bontà e gentilezza, mi chiede della mia salute e poi, guardandomi negli occhi, fissi: caro Don Andrea, come la mettiamo coi transessuali? Eminenza, come la mettiamo con i transessuali? E lui è rimasto veramente ammutolito. Tant'è vero che si è alzato in piedi. Cioè, udienza finita. Era il Gallo, come lo chiamavano a Genova, il prete angelicamente anarchico, come lui stesso amava definirsi. Nella seconda ora lo raccontiamo con Marina Milone in una puntata di Giovanna Corsetti. Mix 24 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, il canzoniere. Edoardo, chiameremo con questo nome un ricco barone nel fiore dell'età virile, aveva trascorso la più bella ora d'un pomeriggio d'aprile nel suo frutteto per innestare su tronchi giovani certe marze che aveva da poco ricevuto. 800 24 00 24 349 238 6666 l'SMS per la risposta sul canzoniere, ma intanto andiamo con gli ospiti che aspettano. Eccoli Dudu e Ayace Telamonio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a Dudu, buongiorno ad Ayace Telamonio. Mi faccio forte delle scuole alte e parlando in canese e interpello Dudu. Allora c'è Dudu pronto. Mario, la guarda, tua domanda. Io religiosamente apro il mio taccuino, ho una domanda enorme e io mi attendo una risposta ferma, pronta. Caro Dudu, io ho sentito Grillo dire da Vespa che ha un cane uguale a te. Ora, ma se è così, almeno tra voi cani vi siete parlati? Complimenti Secchi, lei fa sempre scoop. Sì, però non funziona con me l'adulazione. Io voglio capire, si sono parlati Beppe e Silvio? Dammi il tempo di tradurre. Almeno sì, l'ho. Sto traducendo. Allora, ha detto complimenti Secchi, lei fa sempre scoop. Sì, e io gliene regalo un altro. Quindi potete far battere le agenzie la notizia. Io e Fru Fru, il cane di Beppe Grillo, siamo cuginetti. Siamo cuginetti. E come mai? Siamo arrivati rispettivamente io tra le braccia soavi di Francesca Pascale e le ginocchia deliziose di Silvio Berlusconi. Lui invece tra i peli arruffati di Beppe Grillo. Siamo arrivati da una stessa cucciolata. Purtroppo, le faccio fare un altro scoop. Continua che non mi ricordo. Ah, grazie. Scusi Dudu, scusi. Purtroppo non avevamo superato il provino a Striscia la Notizia, al provino Canuzzo. Con Antonio eravamo. E Antonio Ricci. Con Ricci. Non posso dire che ci abbia regalato i rispettivi adesso padroni. Adesso ho capito. Però ha fatto un buono sconto. Grande. Ciao Dudu, grazie. No, vabbè, c'è Ayace che aspetta. No, Ayace, una domanda secca, diretta. Ma il premier un pochino ingrassato, un pochino con l'aria dimessa di questi giorni, che dice comunque il 30% va bene, lo preferisce D'Alema a quello ruspante barbaro di prima oppure no? Barbaro, ruspante, selvaggio, il Matteo che voglio ha pure un filo di barba, indossa una camicia, a volte anche una felpa, ed è il Matteo vero. Ha pure scritto Padania. E io, ma no, che ma posso votare volta gamba. No, un traditore. No. Un traditore, Ayace, farai una brutta fine. Scusa, cosa ha detto? No, dice che lui può votare. Grazie, può votare e vota Salvini. Vabbè. Bolla. Vai, allora. Questa la facciamo con sottofondo lieve di musica orientale. Ve l'ho detto che io questi giorni guardo solo, esclusivamente, quel che accade nel Pacifico. Allora, i dati delle borse asiatiche sono positivi, trainati da buone prospettive per il settore manifatturiero della Cina. Tutto questo ci deve far sorridere, sì, perché comunque noi sempre inseriti nel mondo siamo. La Banca del Giappone stamattina ha fornito un outlook dove dice che la ripresa ci sarà e sarà anche sostenuta. L'Europa? Missing in action. Vanno bene solo i tedeschi. I dati francesi sulla fiducia sono cattivi. Attendiamo il voto. Canzoniere, abbiamo una risposta? Sì, intanto, c'è Riccardo da Bergamo. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Il libro di cui avete detto l'incipit è Affinità elettive di Goethe. Giusto! Goethe, insomma, più o meno, ma va bene. Che cosa fa lei a Bergamo di bello? Io sto andando in università a Milano, studio filosofia. Ah, beh, allora era un facile. Feltrinelli. Un Feltrinelli per lei, complimenti. Grazie mille, grazie. Complimenti, abbiamo ancora un attimo il professore, c'è il professore al telefono? Sì, buongiorno. Ah, buongiorno professore, una battuta anche a lei. Dov'era il cano? Mi dicono che lei è in... Metropolitana, ma dove? A Milano? A Milano. Ma devo dire che si sente bene? Si sente bene in metropolitana? Benissimo. Però non mi offre quelle suggestioni poetiche che la metropolitana romana offre. Forse non è colpa della metropolitana, sono io che sono poco sensibile o meno di tutto fuoco. Mi dica dov'era il cane, abbiamo 30 secondi. Allora, 30 secondi, anche se ingrassato, secondo me il cane ieri sera se l'è portato via Matteo Renzi, perché dalla Gruber, e grazie anche alla bravura di Lilli, ha fatto una performance che quasi eguagliava quella della Pausini della sera prima, dopo un one woman show, un one man show. Non ha fatto parlare né Gruber né Feltri. E questa è una notizia, perché Gruber veniva da una serie di grandi bacchettate date a tutti quelli che... E non è andata così, va bene. Grazie, la seconda ora l'abbiamo detto, è dedicata a Don Andrea Gallo e Marina Milone, intervista una sua amica e collaboratrice Anna Raibaudi.